Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Eccoci qui, buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia, il punto sulla giornata economico-finanziaria. Abbiamo il palinsesto che ci impone per riorganizzazione natalizia di presentarvi, proporvi una puntata di un'ora, ma abbiamo tutto il tempo per raccontarvi appunto le numerose notizie che hanno caratterizzato questa giornata economico-finanziaria, a cominciare dalla borsa che è positiva, lo è da questa mattina, ma in Europa non è così, a Wall Street dove invece il quadro ci presenta un segno meno su tutti i principali panieri. Pesa la tensione legata al raggiungimento di un accordo fra democratici e repubblicani per evitare il precipizio fiscale, ma a quanto pare la borsa mantiene uno stato d'allerta abbastanza evidente, perché qua i giorni passano, il presidente Barack Obama è rientrato dalla sua vacanza alle Hawaii per naturalmente fare un po' il punto politico su questo accordo, ma evidentemente c'è molta tensione perché non si capisce se questo accordo si riuscirà a trovare o meno. Parleremo poi naturalmente anche di molti fatti che riguardano il nostro paese, l'Italia. Faremo un punto su queste prime giornate di festività natalizie, un punto naturalmente che riguarda fondamentalmente i consumi. Coldiretti ha monitorato attentamente sia in via preventiva che in fase successiva appunto come stanno andando le cose, e l'ultimo punto ci racconta che sono stati spesi in beni alimentari 2,5 miliardi di euro, ma le famiglie italiane quest'anno si sono impegnate a non sprecare nulla, e quindi l'analisi della Coldiretti SVG appunto sarà particolarmente interessante da analizzare. La tendenza a ridurre gli sprechi, dice Coldiretti, da parte degli italiani è l'unica notizia positiva della crisi, in una situazione in cui in Italia sono aumentate del 9% le persone costrette a ricevere cibo o pasti gratuiti in mensa o nelle proprie case. Peraltro questo è un tema che abbiamo affrontato anche questa mattina a Salvadanaio. Tra l'altro, a proposito di consumi, approfondiremo anche nel corso della trasmissione un altro argomento che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto per quello che riguarda le associazioni del commercio, perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale qualche giorno fa, poco prima di Natale, che ha detto il mondo del commercio si può liberalizzare completamente, per cui i negozianti, i commercianti, i centri commerciali che vogliono tenere aperto non solo la domenica ma anche nei giorni di festa, quindi anche il giorno di Natale, possono farlo liberamente. Quindi nella sostanza è stato respinto quel ricorso che era stato fatto dagli enti locali e dalle regioni contro questa decisione appunto da parte delle organizzazioni della grande distribuzione. Ebbene, appunto, c'è molta polemica perché Confesercenti, Confcommercio dicono è una misura, una decisione che non serve assolutamente a nulla. Se dovranno tenere aperti i propri negozi anche durante le feste, anche di domenica, i commercianti spenderanno solo ma non incasseranno nulla, perché c'è crisi, perché non ci sono soldi da spendere da parte delle famiglie, per cui probabilmente sentiremo ancora parlare a lungo di questa polemica, e sentiremo oggi, vi proporremo appunto anche proprio la posizione di Confesercenti che è durissima su questo, ma anche la Chiesa ha fatto il suo in tutto questo tema. Poi vi racconteremo perché, vi racconteremo naturalmente la giornata di borsa, vi racconteremo delle difficoltà delle imprese del sud, abbiamo sentito già qualche anticipazione nel corso del giornale radio, vi presenteremo qualche dettaglio di Check Up Mezzogiorno, che è questo studio di Confindustria che appunto ha fatto un monitoraggio piuttosto preoccupante. La sintesi di questo studio è che in 4 anni al sud sono state chiuse 16.000 imprese e quindi 330.000 occupati in meno, e questo appunto ci dà l'idea di quale sia la condizione del sud Italia in questo momento, che non è felice per nessuno, e lì invece le cose vanno ancora peggio, in una media nazionale già piuttosto preoccupante. Allora, questi un po' i temi principali, ma avremo tante cose da raccontarvi. 349-238-6666 è il numero per gli sms se vorrete condividere con noi i vostri commenti sui fatti del giorno. Per quello che riguarda la borsa, Milano più 0,4%, spread fra BTP e Bund a 319 punti base. Adesso le altre notizie in breve della giornata. Allora, cominciamo come sempre con l'andamento delle materie prime, quindi quotazioni dell'oro e quotazioni del petrolio. Questa mattina l'oro risultava in calo sui mercati ed era scambiato a 1653,55 dollari l'oncia, in calo di circa lo 0,4% rispetto alle quotazioni di Singapore delle ore precedenti. Il petrolio invece a New York oggi ha aperto in rialzo a 91,93 dollari al barile. Ci sono stati molti dati macroeconomici oggi dagli Stati Uniti, alcuni anche interessanti perché sono quelli che vengono monitorati un po' di più rispetto a molti altri che sono generalmente diffusi e che hanno in genere un impatto in borsa. Allora, abbiamo avuto intanto i sussidi settimanali di disoccupazione che sono diminuiti nell'ultima settimana monitorata di 12.000 unità a quota 350.000. Il dato è decisamente migliore delle attese perché il consensus si aspettava 360.000 sussidi complessivamente distribuiti nella settimana appunto scorsa. Gli altri dati macro americani: la vendita di nuove case ha toccato a novembre il livello più alto da oltre 2 anni. Secondo le statistiche del Dipartimento del Commercio americano, le transazioni di abitazioni unifamiliari nuove sono cresciute del 4,4% nel mese scorso rispetto ad ottobre, attestandosi a 377.000 unità, un livello che appunto non veniva raggiunto dall'aprile del 2010. E a fronte di questi due dati che sono stati positivi, è sceso invece oltre le attese la fiducia dei consumatori americani. Ce ne sono un paio che vengono mediamente elaborati, quello dell'Università del Michigan e quello di oggi, che è invece quello misurato dal Conference Board. Questo dato, questa rilevazione è scesa a 65,1 punti a dicembre dai 71,5 di novembre ed è peraltro quello di novembre è stato anche rivisto. La lettura di dicembre è la peggiore dallo scorso agosto ed è nettamente inferiore ai 70 punti pronosticati dagli analisti. E quindi insomma un quadro davvero contrastato quello che arriva dagli Stati Uniti. Andiamo invece alle notizie che arrivano dall'Europa e abbiamo oggi alcune dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. L'economia tedesca crescerà regolarmente anche nel 2013 nonostante la difficile congiuntura, ha detto. La situazione è migliore di quanto si pensi perché tra le altre cose gli affari con gli Stati Uniti e con l'Asia si stanno rafforzando. Queste le dichiarazioni appunto del ministro Schäuble in un'intervista al Bild anticipata oggi. In Germania pensate che per gli acquisti di Natale il settore del commercio al dettaglio prevede di realizzare un fatturato record di oltre 80 miliardi di euro, all'1,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Notizia dall'altro grande malato europeo, invece dalla Spagna, sfratti e pignoramenti in aumento a causa della crisi economica. Su base annua i primi, cioè gli sfratti, hanno fatto registrare un più 15,9%, i secondi un più 18,3% rispetto ad un anno fa. Il trend però nel terzo trimestre avrebbe rallentato la corsa e almeno per quanto riguarda gli sfratti il numero è diminuito rispetto al trimestre precedente da 18.668 a 12.610. Secondo dati dell'autorità giudiziaria nei primi 3 mesi erano state predisposte 49.700 procedure di sfratto per abitazioni, aziende agricole locali. La crisi economica e la disoccupazione stanno portando molte famiglie ed imprese alla perdita di case perché non possono permettersi di pagare i loro debiti. Andiamo alle notizie dall'Italia. Oggi buone notizie per il Tesoro italiano che ha venduto tutti gli 8 miliardi e mezzo di bot a 6 mesi in offerta, ma i tassi sono stati in leggero rialzo. Il rendimento medio è salito allo 0,94% dallo 0,91 dell'asta del 28 novembre scorso. Il Tesoro ha venduto anche tutti i 3 miliardi e 250 milioni di euro di CTZ, registrando invece per quello che riguarda questa asta tassi in calo. Il rendimento medio è sceso all'1,88% dall'1,92% dell'asta del 27 novembre scorso. Lo spread però oggi ha ripreso a salire, in questo momento siamo a 319 punti base. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane a dicembre è sceso a 75,4 punti da 76,5 di novembre. Lo ha rilevato l'Istat, aggiungendo che si tratta del livello più basso dall'inizio delle serie storiche, cioè dal gennaio del 2006. È stato firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori diretti dello stabilimento Alcoa di Porto Vesme. La sigla nella tarda mattinata nella sede del Ministero del Lavoro a Roma con i delegati della rappresentanza sindacale unitaria e i segretari provinciali delle organizzazioni di categoria. F2 Investimenti, andiamo alle notizie finanziarie che riguardano di più il Nord Italia, già possessore del 29,75% della SEA, la società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa, che lo ricorderete perché ne abbiamo parlato molto nelle scorse settimane, ha ritirato la quotazione in borsa, ha presentato l'unica offerta per il 14,5% del gruppo aeroportuale messo all'asta dalla provincia di Milano, asta per la quale oggi scadeva il termine di presentazione delle offerte. Altre notizie dal mondo del lavoro. Nel 2011 è occupato il 45,7% dei diplomati che hanno conseguito il titolo nel 2007, ovvero 4 anni prima. Anche questa indagine è stata comunicata dall'Istat, che ha aggiunto che rispetto alla precedente edizione dell'indagine condotta sui diplomati del 2004, intervistati a 3 anni dal conseguimento del titolo, la quota degli occupati si riduce di circa 5 punti percentuali. Nel 2007 era infatti superiore al 50%, ora invece risulta al lavoro meno della metà dei diplomati. E i più elevati livelli di disoccupazione, superiori al 34%, si registrano fra i diplomati che hanno ricevuto una formazione artistica, liceale o magistrale, mentre i più bassi si rilevano fra i diplomati tecnici, 22,4%, e quelli degli istituti professionali, 21,4%. Anche in questo caso, naturalmente, ancora quanto ci racconta l'Istat nell'indagine 2011 su chi ha conseguito il diploma nel 2007. Andiamo ai consumi. Una stangata drammatica, definita così, da quasi 1.500 euro a famiglia, è quella in arrivo nel 2013, secondo le previsioni di Adusbef e Federconsumatori, che sono due delle più grandi associazioni dei consumatori nel nostro paese, fra alimentari, biglietti dei treni, RC auto, bollette, bolli e servizi postali e bancari, pedaggi, tariffa rifiuti e ricadute dell'IMU, gli aumenti saranno insostenibili per le famiglie italiane, decretano queste due associazioni, pari appunto, come si diceva, a 1.490 euro. Si va dall'aumento del canone RAI, che appunto incrementa di 1,50 euro, a quello delle tariffe postali, e sentiamo allora il commento di Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Dopo questo 2012, un 2013 così carico di aumenti, francamente è una cosa che raggiunge le famiglie italiane già spossate nel loro potere d'acquisto. Abbiamo visto anche la forte contrazione dei consumi che deriva da ciò, e abbiamo visto a Natale quale freddo, ma non solo meteorologico, ha attraversato tutto il periodo natalizio. Che cosa peserà di più nel 2013? Ci sarà un aumento spalmato su tantissime voci. Per esempio, registriamo che nelle bollette non ci saranno i picchi del 2012 su luce e gas, ma però per quanto riguarda la nuova bolletta delle tariffe di rifiuti solidi urbani, lì ci sarà una vera e propria stangata micidiale di oltre il 25-30%. A questo si aggiungerà anche il previsto aumento dell'IVA a partire da luglio. In una situazione come questa, andare a colpire l'IVA non farà altro che contrarre ulteriormente i consumi di mercato, aggravando così la situazione economica sia dell'intermediazione che delle imprese. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eccoci allora, la sigletta la riconoscete bene, è quella che mettiamo ad introduzione di tutte le notizie curiose che appunto ci capita di intercettare nel corso della nostra ricerca quotidiana, nel corso della nostra documentazione appunto quotidiana per preparare le nostre trasmissioni. Sono notizie legate in qualche maniera alla crisi, cerchiamo di costruire questa piccola rubrica con delle notizie positive, e non sempre ci si riesce, ma almeno ci sforziamo. Allora sentite la prima, che arriva dalla Grecia. Atene, per aiutare i greci a combattere la crisi economica che attanaglia il paese, giunto al quinto anno consecutivo di recessione, e insomma è il nostro tormentone quotidiano, il capo della potente chiesa greco-ortodossa ha offerto ai fedeli la possibilità di coltivare terre di proprietà della chiesa stessa. Coloro che vogliono lavorare la terra, contribuire alla sicurezza alimentare del paese e allo sviluppo di una moderna ed esportabile produzione agricola di bestiame, devono sapere che quel poco che è rimasto delle terre della Chiesa è a loro disposizione, ha detto il primate, senza però precisare se la terra, è chiaro che questo dettaglio non è stato dato, se la terra verrà concessa ai richiedenti dietro pagamento di una somma di denaro. Il governo greco, da parte sua, ha già avviato da tempo un programma per offrire terra coltivabile a giovani agricoltori che ne facciano richiesta. La Apple, come sapete, il grande colosso mondiale, appunto fondato da Steve Jobs, ha lasciato le redini, Steve Jobs necessariamente, essendo mancato qualche tempo fa, ad un altro grande manager, Tim Cook. Allora, sentite che cosa ha fatto Tim Cook, che è adesso il numero uno appunto di questo grande gruppo. Si è visto evaporare nel 2012 praticamente la sua busta paga, che ha dovuto sopportare un taglio di quasi il 99%. Questo signore percepiva fino all'anno scorso qualcosa come 378 milioni di dollari tra retribuzione e stock options sui titoli a scadenza, sui titoli della società nel 2011. Quest'anno invece ha portato a casa solo 4 milioni e 174 mila dollari. A far crollare i suoi compensi, l'assenza per l'anno in corso di premi in azioni, 1 milione di azioni Apple assegnategli all'atto della nomina ad agosto del 2011, che da sole valevano appunto 376 milioni di dollari, e ciò proprio nell'anno in cui il titolo di Cupertino ha toccato il picco di 705 dollari per azioni a settembre, per poi arretrare intorno a quota 510. Direi che per quello che riguarda le notizie curiose dal mondo economico possiamo lasciare qua. Adesso andiamo al primo approfondimento di oggi. Allora, è il grande tema sul quale in questi giorni si sbizzarriscono tutti i giornalisti economici, ma soprattutto stiamo osservando, forse con un pizzico anche di ossessione, in questo periodo come stanno andando i consumi delle famiglie italiane. Chiaramente prima dell'arrivo delle festività, grandi previsioni, e poi chiaramente questo è il momento del consuntivo. Allora, che cosa ha scoperto Coldiretti? Coldiretti appunto ha nella consueta analisi organizzata con la collaborazione appunto dell'istituto SVG, che per il tradizionale cenone della vigilia e il pranzo di Natale, 9 italiani su 10 sono rimasti a casa con parenti o amici, e questo in qualche maniera lo avevano così fatto capire anche prima, e hanno speso 2 miliardi e mezzo di euro, il 10% in più rispetto allo scorso anno, in una fase in cui per i regali di Natale invece le famiglie italiane hanno speso molto meno. A quanto pare invece per rimanere a casa e godersi queste festività di crisi in famiglia con gli amici e con i parenti hanno speso qualcosa in più. Andrea Fugaro dell'ufficio studi di Coldiretti, buonasera e benvenuta a Focus Economia. Buonasera a voi. È una sorpresa questo dato, Fugaro? Sotto un certo punto di vista sì, perché in un periodo di crisi dove diminuiscono i consumi un po' di tutte quante le voci, vedere aumentare invece la voce cibo e quindi sulle tavole dei italiani vedere 2 miliardi e mezzo di spesa e un 10% in più rispetto all'anno scorso, come dicevate poco fa, è un dato certamente nuovo da leggere come un'assoluta novità. Ecco, no, tra l'altro voi avevate già anche fatto un'analisi preventiva, e vostra abitudine chiaramente cercare di capire con un po' di anticipo come potrebbero essere così rappresentati i consumi in questa fase dell'anno, e avevate già avuto modo di raccontarci che le famiglie italiane quest'anno sarebbero state molto meno propense rispetto al solito, e per fortuna ci aggiungo io, a sprecare cibo, perché il quantitativo di cibo che va a male in un periodo come questo solitamente è molto alto. alto, avevate quantificato anche un bel po', qualche diverse decine di euro appunto a cranio. Quindi questo stupisce effettivamente, il fatto che si sia portati a casa un po' l'industria alimentare anche del nostro paese, un 10% in più rispetto allo scorso anno è già un buon dato. Si partiva da una, come dire, da un livello molto basso però, Fugaro, perché magari effettivamente questo 10% in più, se partiva da uno stock complessivo limitato, magari potrebbe rappresentare anche un dato non particolarmente significativo per l'industria. No, il dato è assolutamente interessante. Si partiva da una previsione secondo noi inferiore rispetto a quello che poi si è verificato, perché insomma la crisi colpiva un po' tutti quanti i settori. Quello che è interessante è quello che leggiamo dopo la spesa in qualche modo, cioè anche il fatto che si siano ridotti notevolmente gli sprechi. Questo è molto importante, perché gli sprechi sono diminuiti parecchio rispetto all'anno scorso. Lei pensi soltanto che più del 20% degli italiani non ha fatto avanzare niente dalla tavola della vigilia e del pranzo di Natale, e comunque anche un buon 55% ha ridotto gli sprechi rispetto all'anno successivo. Ecco, un altro aspetto che avete monitorato e che è molto interessante è che gli italiani indigenti che hanno ricevuto pacchi alimentari o pasti gratuiti attraverso i canali no profit che distribuiscono le eccedenze alimentari hanno raggiunto quasi quota 3.700.000, il massimo dell'ultimo triennio, secondo la relazione peraltro sul piano di distribuzione degli alimenti agli indigenti 2012. Anche questa è un'altra sorpresa positiva. C'è un ascoltatore che ci scrive, Fugaro, ma i ristoranti hanno acquistato meno? Siete riusciti a fare un monitoraggio anche da questo punto di vista? Beh, i ristoranti sì, hanno acquistato meno, anche perché sono state meno le persone che si sono recate anche al ristorante durante le feste. Noi abbiamo visto che insomma 9 italiani su 10 sono rimasti a casa, hanno cucinato il pranzo di Natale a casa, tra l'altro passando, secondo i nostri dati, circa 3 ore ai fornelli in media. E è stata più una spesa diretta quella che noi abbiamo registrato. Sì, i ristoranti hanno acquistato di meno. C'è un altro ascoltatore, questa la devo leggere perché fa un commento che è un po' maligno, ma io mi sentirei anche un pochino di condividerlo, non me ne vogliano i commercianti, perché poi tra un po' anche il rappresentante di Confesercenti che magari mi batterà anche come dire la bacchettina sulle mani. 10% in più sono gli scontrini che i commercianti hanno cominciato a battere, lo scrive Paolo. Fugaro, che ne pensa? Beh, credo che sia un dato importante anche questo, in un momento in cui insomma mi sembra che la lotta all'evasione sia un po' il caposaldo di tutte le proposte politiche, è importante anche l'aumento degli scontrini. Devo dire che come agricoltori, noi che vendiamo anche in vendita diretta, quindi direttamente al consumatore, anche noi insomma rispettiamo il fisco e mettiamo in trasparenza tutti i nostri guadagni. Ecco, speriamo di farlo tutti quanti davvero senza distinzione a partire dal prossimo anno qua, perché ci siamo un po' stufati di pagare non tutti e pagare per tutti gli altri che non lo fanno, ma questo non c'entra niente con il tema che stiamo affrontando in questo momento. Tra l'altro ci ha già raggiunto anche Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti, lo saluto tra un attimo, con lui parleremo invece di saracinesche alzate a Natale, operazione per la quale i commercianti non sono per niente d'accordo. Le volevo fare ancora un paio di domande, Fugaro, intanto che cosa metteranno invece sul piatto il 31 le famiglie italiane? Secondo lei adotteranno ancora lo stesso comportamento, visto che sono state a casa a Natale, magari ci si divertirà un po' di più a Capodanno e quindi i consumi presenteranno un bilancio diverso il 1 gennaio? No, secondo le nostre, qui siamo a livello di stime, credo che si confermerà il trend che abbiamo avuto a Natale, tra vigilia e pranzo di Natale. Cosa metteranno sulle tavole? Le lenticchie non mancheranno. Certamente le lenticchie, ma in generale abbiamo registrato un aumento dei prodotti made in Italy e un abbandono invece delle mode un po' esterofile, le ciliegie del Cile, gli ananas, il caviale e il salmone. e soprattutto un grande boom dello spumante che credo che a Capodanno sarà confermato. Abbiamo registrato quest'anno un più 20% di consumo di spumante in Italia, ma anche all'estero, dove ha superato il nostro concorrente francese. Ecco, che non si può nominare naturalmente. Grazie, grazie ad Andrea Fugaro dell'Ufficio Studi di Coldiretti. Focus Economia. Sono le 17.33, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Milano si sta avviando ad una chiusura per quello che riguarda la borsa, con un rialzo dello 0,46%, quindi quasi mezzo punto percentuale di guadagno, ma noi adesso parliamo invece di negozi aperti durante le feste, di negozi aperti di domenica. Cosa è successo negli ultimi giorni? Che la Corte Costituzionale si è pronunciata sui ricorsi che erano stati presentati da alcune regioni, ve ne cito qualcuna: Piemonte, Veneto, anzi tutte, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, contro l'articolo 31 della legge Salva Italia, che aveva stabilito, appunto, ve la sintetizzo in maniera estrema la questione, che aveva ritenuto, appunto, chiaramente che per incentivare i consumi, quindi riportare anche il nostro paese sul sentiero della crescita, si potesse intervenire attraverso un'apertura totalmente liberalizzata, appunto, dei negozi, che quindi potevano scegliere di rimanere aperti la domenica e anche durante le feste. L'organizzazione che rappresenta i marchi della grande distribuzione, Federdistribuzione, nei giorni scorsi ha espresso grandissima soddisfazione per questa sentenza, appunto, sulla liberalizzazione degli orari dei negozi. Sono di tutt'altro avviso invece le associazioni che rappresentano il mondo del commercio, Confcommercio e Confesercenti. Noi proprio Confesercenti abbiamo interpellato questa sera con Massimo Vivoli, vicepresidente vicario, appunto, di questa organizzazione del commercio. Vivoli, buonasera. Buonasera a lei. Voi siete stati davvero piuttosto perentori nel giudizio dato rispetto a questa novità. Le aperture dei negozi umiliano la festa. È un po' la stessa posizione che ha la Chiesa, tra l'altro, che addirittura per esprimere la sua posizione rispetto a questa novità, so che addirittura molte parrocchie hanno organizzato anche delle raccolte di firme al termine delle messe della domenica. Ma a parte, commentare questo aspetto, poi ognuno fa quello che vuole, per quale motivo proprio c'è un no così forte rispetto a questo, Vivoli? Non ci servirebbe fare un po' di tutto ciò che c'è nelle nostre possibilità, appunto, per far riprendere un po' i consumi? Ma guardi, se c'era una cosa che funzionava molto bene in Italia anche rispetto agli altri paesi a noi vicini, paesi europei, eravamo un paese dove le aperture delle attività commerciali in generale erano maggiori rispetto a tutti gli altri, e sviluppati tra l'altro in un equilibrio che era stato ritrovato con chi ha la competenza diretta e conosce il territorio, con le regioni e con gli stessi comuni. E avevamo trovato anche in modo equilibrato, tra l'altro, le aperture nelle domeniche e nei festivi per quanto riguardava la grande distribuzione, i centri commerciali e le piccole attività. Questo perché era stato raggiunto sicuramente attraverso un tavolo di concertazione e aveva trovato grande soddisfazione e risposta nei confronti dei consumatori. Poi è venuto questo articolo 31 nel decreto Salva Italia, che non ha liberalizzato, ha proprio smontato completamente quello che è stato quell'obiettivo positivo che avevamo raggiunto, dicendo che cosa? Che sicuramente la liberalizzazione selvaggia come è stata fatta avrebbe creato più posti di lavoro e avrebbe sicuramente fatto aumentare i consumi. Ecco, dopo un anno che questa legge qui è in funzione, i consumi sono in grande frenata, perché non è che tenendo più aperti i negozi la gente consuma di più, bisogna magari mettere nelle buste paga sicuramente più risorse, più denaro, perché le famiglie oggi abbiano la possibilità maggiore di spendere, e magari anche alle famiglie meno imposte, meno tasse, per avere, diciamo così, più soldi. E sicuramente anche il dato invece ha portato in modo negativo, che ha creato disoccupazione, perché ha fatto chiudere nei centri anche importanti le piccole attività e hanno creato sicuramente maggior disoccupazione e non posti di lavoro. Noi fin dall'inizio siamo stati contrari, perché riteniamo che chi conosce bene il territorio, in questo caso i comuni e le stesse regioni, dovevano avere la competenza, tant'è vero che abbiamo appoggiato anche il ricorso della Corte Costituzionale delle 8 regioni, che termino dicendo che per noi sicuramente è più una sentenza, diciamo così, politica, che non entra proprio nel merito della competenza del governo in materia di concorrenza e semplificazione. Ecco Vivoli, io capisco perfettamente la vostra posizione, che per certi aspetti è sicuramente ragionevole. Oltretutto, lei diceva, prima di fare questo intervento magari assicuriamoci effettivamente che le famiglie abbiano qualcosa da spendere, perché sennò si vanifica tutto. Per noi commercianti sono costi in più, perché chiaramente dobbiamo pagare magari il dipendente che tiene aperto il negozio nella giornata di festa, il costo è doppio, triplo, ci sono tutte le spese da sostenere per l'apertura del negozio, la luce e quant'altro. Ma a parte tutto questo, nonostante la Corte Costituzionale abbia confermato la liberalizzazione appunto delle aperture domenicali, si tratta pur sempre di una facoltà per i commercianti, quindi se ne possono avvalere ma possono anche non farlo. Qual è il problema per voi? Se... La risposta, tra l'altro, che è stata data anche da un'indagine ultima fatta tra l'altro dalla Federazione dei Consumatori, abbiamo visto che le attività commerciali, è evidente che favorisce la grande distribuzione. La grande distribuzione ha possibilità di contratti, lei sa benissimo, per quanto riguarda anche gli impieghi, nel numero dei dipendenti che ha, sicuramente anche di avere quelle flessibilità che un negozio tradizionale con una commessa, i familiari a un certo momento devono aggiungere un ulteriore costo, come lei giustamente diceva, e non possono competere con quello che è il problema dei grandi centri commerciali e della grande distribuzione. Ma perché avevamo, dicevo all'inizio, trovato quell'equilibrio giusto? Perché anche la grande distribuzione aveva festività e domeniche aperte nell'arco dell'anno, però trovate in un equilibrio dove le altre attività, le piccole, erano aperte nei giorni festivi e nelle domeniche, sicuramente avevano trovato quell'equilibrio che serviva anche alle attività tradizionali ad andare avanti, cosa che oggi invece facilita soltanto la grande distribuzione e non i consumi, né tantomeno i posti di livello occupazionale. Vivoli, nessuno dei vostri ha tenuto aperto il giorno di Natale, nessun aderente a Confesercenti, qualcuno l'avrà fatto, quantomeno nelle grandi città, Roma, Milano, Venezia, Firenze? Ma guardi, o tutti hanno detto no e basta? Dai dati che abbiamo noi li posso garantire, perlomeno già da un'indagine che abbiamo fatto nelle grandi città come lei, i negozi erano non soltanto i nostri, diciamo quelli con cui abbiamo rapporto a livello territoriale, ma nemmeno gli altri, erano tutti completamente chiusi ed è giusto che sia così. Finita, non sarà finita per niente, perché sicuramente qualche altra puntata la racconteremo. Adesso chiusa la parentesi su questa battaglia delle saracinesche alzate nelle giornate di festa a Natale, la domenica e quant'altro, fra un po' si riapre l'altra grande polemica stagionale, Vivoli, che è quella dei saldi. Qua che previsione facciamo quest'anno? Ma noi la previsione ci aspettiamo sicuramente in determinati settori che ci sia una forte ripresa, perché se noi ci riferiamo, per dire, a quello che è l'abbigliamento, è un forte calo, ecco, da anni sta attraversando una profonda crisi. Speriamo che, ecco, durante i saldi ci sia una ripresa nelle vendite, perché effettivamente i dati che noi sono nel nostro possesso attraverso il nostro centro studi, cioè sono attività commerciali che stanno chiudendo, che stanno effettivamente scomparendo anche da quello che è la vita sociale delle città, dalle piazze o meno, che rappresentano, cioè, oltre che posti di lavoro, anche un punto estremamente importante per quanto riguarda la vita delle stesse vie, delle stesse città. Ecco. Tra l'altro, qual è il calendario? Si ricorda la prima regione che parte immediatamente? La prima regione parte il 2 di... Ora, partono il 2 e il 5 di gennaio, ora... Il calendario davanti non ce l'ho, non me lo ricordo neanche io, va bene, poi lo recuperiamo al volo. Il 7 gennaio, ecco, anche qui poi sono i saldi ufficiali, perché molte vendite promozionali, come lei sa, sono partite da molto tempo, perché effettivamente le attività commerciali oggi, con la stretta del credito, con le pressioni fiscali che hanno, ecco, sia ben chiaro, ho sentito prima giustamente, noi siamo perché gli scontrini vadano fatti, perché ha ragione, su questo punto condividiamo, e siamo anche tra l'altro stati promotori negli studi di settore per portare tra l'altro una sensibilizzazione dell'intera, ecco, però la stragrande maggioranza dei commercianti le fa, però poniamoci anche il problema che questi sono anche operati da una pressione fiscale che effettivamente, come è sulle famiglie, anche sulle imprese, che oggi sfiora quasi oltre il 50%. Vivoli, grazie molte, le auguro buon fine grazie d'anno. Naturalmente ho la sensazione che magari ad inizio gennaio, per fare un punto sui saldi, ci risentiremo senz'altro. A presto, grazie molte. Abbiamo la borsa, adesso abbiamo la borsa. Io l'ho lanciata, ma non sono sicura di avere in collegamento Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Andrea, buonasera, qua mi stavo divertendo con i saldi e con altri temi sui quali per la verità c'è ben poco da divertirsi, perché qua la crisi ci stringe d'assedio ovunque ci giriamo. Allora buonasera Andrea. Buonasera Deborah. Allora, fra un minuto e mezzo devo andare in pausa, ma qualche tema lo possiamo raccontare senz'altro. Le borse stanno chiudendo con un rialzo di mezzo punto, almeno Milano, Parigi un po' più tranquille, Francoforte che fa più 0,26, Londra sulla parità, ferma, mi sembra fosse negativa la Spagna, adesso non trovo l'indice, mentre è negativa Wall Street. Strade separate oggi tra il vecchio continente e gli Stati Uniti. Sì, peraltro è stata proprio una notizia americana a raffreddare le borse europee, che invece sembravano orientate verso una chiusura molto più tonica, molto più brillante, soprattutto Milano che è arrivata a guadagnare a metà del pomeriggio anche l'1%. Invece questo indice della fiducia dei consumatori americani ha sorpreso un po' tutti a dicembre con un calo significativo superiore a quello che si attendevano gli esperti, gli economisti nei sondaggi precedenti all'uscita del dato, e questo ha un po' spento gli ardori di una seduta peraltro un po' tecnica, anche perché ci avviciniamo alle ultime giornate dell'anno e quindi gli aggiustamenti di portafoglio, i realizzi su quei titoli che magari hanno corso di più sono un po' l'argomento all'ordine del giorno più che guardare singole storie, quindi si guarda un po' di più a chi ha corso un po' di più e a chi promette bene per il 2013. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta, chiusura della seduta per Piazza Affari, più 0,46% sul FTSE MIB, più 0,49%, più 0,45% sul FTSE All Share. Oggi a trainare verso l'alto la seduta di Piazza Affari, i titoli del settore bancario che hanno beneficiato dell'esito delle aste dei titoli di Stato italiani. Sono andate bene per entrambe, il Tesoro italiano ha collocato 8 miliardi e mezzo di BTP a 6 mesi e oltre 3 miliardi di euro appunto di CTZ. Rendimenti per un'asta un po' più alti, per l'altra un po' meno, spread un po' più altino degli ultimi giorni, 319 punti base, eppure le banche sono andate bene, Andrea Fontana. Sì, cioè, diciamo che è continuato quel trend di positivo per gli istituti popolari, soprattutto che è iniziato già da qualche seduta, e hanno continuato il loro andamento. La Popolare di Milano ha guadagnato il 2,5%, il Banco Popolare il 2,4%. E poi in tema di recupero, come accennavo prima della pausa, il Monte dei Paschi ha guadagnato il 2,6%, un istituto che dall'inizio dell'anno ha perso l'11%, uno dei non molti titoli del FTSE MIB che sono stati negativi quest'anno. Naturalmente ha contribuito un po' l'incertezza sulla solidità della banca e quindi poi il ricorso ai Monti Bond che si è concretizzato con la fine dell'anno, quindi le ricoperture su questo istituto hanno permesso oggi al Monte dei Paschi di essere il miglior titolo del FTSE MIB. Finmeccanica ha venduto la quota in avio prima di Natale, come va il titolo? Oggi benino mi sembra. Oggi bene, ha guadagnato più dell'indice, ha guadagnato l'1%, l'incasso da avio è stato superiore alle attese, ma il mercato è già concentrato sulla prossima dismissione, quella di Ansaldo Energia. Ci sono un po' di problemi per quanto riguarda l'accordata italiana guidata dal Fondo Strategico Italiano. Si attende che magari Siemens possa farsi viva con un'offerta concreta dopo la manifestazione di interesse fatta quest'estate, e senz'altro questa dismissione non si concretizzerà entro la fine dell'anno, a meno di un blitz dell'ultimo momento, ma il mercato è concentrato su questa ulteriore dismissione. Andiamo ai titoli minori. Prima parlavamo di SEA, del novità in arrivo per oggi, la quota che deve cedere la provincia di Milano, e c'è invece oggi un altro titolo che è stato in movimento, Gemina. In questo caso appunto le notizie si riferiscono alle nuove tariffe per l'aeroporto di Roma. Sì, oggi il settore aeroportuale è molto, molto d'attualità. Tu ricordavi la notizia che riguarda SEA, poi c'è stato questo passaggio di quote anche per quanto riguarda la società che gestisce l'aeroporto di Torino e di Firenze, cioè Sagat, e invece il caso del giorno in borsa è stato Gemini. Appunto venerdì in estremis è arrivato il via libera del governo Monti al piano di programma con l'adeguamento delle tariffe aeroportuali. Questo dà il là al piano di sviluppo e di investimenti sull'aeroporto di Roma. Gemina è appunto la holding che controlla aeroporti di Roma, e il mercato ha risposto positivamente in maniera molto brillante a questa notizia. C'è da dire anche che le indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore oggi parlano anche di un possibile riassetto in casa Benetton per quanto riguarda tutti gli asset infrastrutturali che coinvolgerebbe sia Gemina sia Atlantia, e diciamo questo ha dato ulteriore pepe al titolo, che ha guadagnato appunto oltre il 30%. Mm-hmm. E anche le azioni di risparmio non convertibili vedo hanno fatto più 24,60%. Continuando, l'ultimo titolo di oggi fra le azioni minori, quelle di Prelios si sono mosse molto bene, più 14%. Qui che cosa è successo? Beh, per l'ex Pirelli Re si è arrivati poco prima di Natale all'accordo, proprio l'ultima seduta prima di Natale si è arrivati all'accordo per la ricapitalizzazione e il rilancio di questo gruppo immobiliare che prima faceva capo direttamente al gruppo Pirelli, che è fortemente indebitato. Il riassetto passerà per un aumento di capitale di 185 milioni, in parte con l'ingresso anche di nuovi soci, in parte con la conversione di debiti. In attesa di capire proprio le tecnicalità di questo aumento, il mercato ha premiato soprattutto il rilancio e gli ha fatto guadagnare il 14%. Andrea, grazie molte per essere stato con noi, buona serata. Buona serata a voi. Noi adesso ci spostiamo rapidamente dalla borsa alle imprese del Sud Italia. Allora, tra il 2007 e il 2011 il PIL del Mezzogiorno, il prodotto interno lordo del sud del paese, è diminuito in termini reali di quasi 24 miliardi di euro, scendendo del 6,8%. Lo calcola Confindustria nel suo studio Check Up Mezzogiorno, pubblicato da Confindustria e Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Più di 16.000 imprese hanno cessato di esistere, sebbene siano aumentate le società di capitali. Il numero di occupati si è ridotto in questo periodo di 330.000 unità, quasi la metà in Campania. E al sud la quota di diplomati disoccupati è più che doppia rispetto al nord Italia, mentre in media a 4 anni dal diploma, lo dicevamo anche prima, lo scorso anno risultava occupato il 45,7% dei diplomati, quindi meno della metà. Anna Marino ha sentito Alessandro Laterza, vicepresidente di Confindustria con delega al Mezzogiorno. Della crisi che inizialmente è stato meno violento sul Mezzogiorno, poi nel medio termine invece si è rivelato drammatico, e questo dipende semplicemente dal fatto che il tessuto produttivo è più fragile, le imprese sono più piccole e quindi c'è una minore propensione sia all'innovazione che all'export, che pure complessivamente va bene, ma non in misura tale da compensare quello che è il problema dei problemi in tutta Italia e ancor più nel sud, cioè il crollo dei consumi interni. Quindi il punto è trovare un equilibrio, in particolar modo attivare quella spesa pubblica sana, non di natura non assistenziale, cioè per investimenti da un lato, e sbloccare il meccanismo dall'altro del patto di stabilità, che come è noto strangola le amministrazioni che non sono in grado di esprimere capacità di spesa. Quindi non è soltanto una richiesta di interventi, ma anche una richiesta, diciamo, di rilancio dei consumi, perché dai consumi, secondo lei, derivano anche la sopravvivenza delle imprese? Questo è un tema che vale negli Stati Uniti come in Germania, vale ovviamente moltissimo in Italia e ancor più nel Mezzogiorno d'Italia. E quindi l'obiettivo è quello di spezzare questa drammatica discesa dei dati relativi all'occupazione e ai redditi, perché è di lì che si deve, o è questo uno dei punti di ripartenza fondamentali per riattivare il sistema. Per fare un esempio, una linea di lavoro molto importante è quella che è stata attivata con il Ministero della Coesione per accelerare in maniera non dissennata e casuale la spesa dei fondi strutturali, che presentava parecchie criticità. Poi il Mezzogiorno ovviamente ha differenze tra zona e zona e intensità di problemi diversi. Alla fine però il dato sintetico è quello che abbiamo descritto nella nostra nota. Ecco, per quanto riguarda addirittura appunto l'occupazione, c'è un dato che è peggiore rispetto alla media, diciamo, dell'Italia, cioè a 4 anni dal diploma meno della metà al lavoro proprio al sud. Questo dato peggiora. Secondo lei come si trattengono i talenti? Non c'è dubbio, perché dove l'impresa è più piccola c'è anche minore capacità di assorbire coloro i quali si affacciano al mondo del lavoro. Ci aggiunga il tema che è molto delicato, e cioè che la frenata che c'è stata per un verso delle uscite per pensione e dall'altro, come vedremo in realtà soprattutto alla fine di quest'anno, le restrizioni che ci sono sui contratti a progetto e soprattutto le collaborazioni a progetto, questo produrrà come insieme un problema che nel sud si risentirà maggiormente che nel centro-nord. Ci vuole un'iniziativa forte da parte delle imprese e degli imprenditori, ma ci vuole anche un'azione pubblica robusta, tant'è che se io dovessi adottare uno slogan non direi più Stato meno mercato e tantomeno più mercato meno Stato. Qui ci vuole più mercato e più Stato, cioè più iniziativa privata, ma sistemi di regole e politiche pubbliche che siano trasparenti e credibili. Rimaniamo al Sud Italia con l'ultimo servizio di oggi, perché sta rientrando lentamente l'emergenza rifiuti a Foggia, scoppiata a metà dicembre dopo il fallimento della società municipalizzata Amica, che lascia 60 milioni di debiti. Secondo la polizia l'emergenza è stata creata promuovendo tutti i dipendenti e dando in gestione esterna ad una società dal nome Fiore la raccolta rifiuti con la connivenza della malavita locale. Intanto si è costituito parte civile il sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, che oggi in un incontro alla Regione Puglia deciderà la prosecuzione dell'attività grazie all'AMIU di Bari. Sentiamo il primo cittadino di Foggia, sempre al microfono di Anna Marino. Io direi che si sta normalizzando, penso che la situazione oramai è definitivamente sotto controllo. Abbiamo avuto qualche giorno di gran lavoro, anche ieri abbiamo lavorato in maniera intensa, si è normalizzata, il meccanismo adesso ci dovrebbe consentire di entrare, diciamo, nella gestione ordinaria tra virgolette della raccolta. Quindi il rischio igienico ambientale è scongiurato? Dal mio punto di vista ritengo proprio di sì. Abbiamo fatto svariati comunicati in tal senso. Diciamo, ieri sono state tolte circa 800 tonnellate di rifiuti, quindi avevamo delle situazioni, diciamo, che si di accumulo per qualche giorno di mancata raccolta, e lavorando anche in questi giorni festivi la situazione quasi totalmente rientrata nella normalità. Ecco, l'emergenza perché cosa si è creato? Si è parlato appunto. È creata perché a seguito del fallimento della vecchia società che si occupava della gestione dei rifiuti e del conseguente licenziamento delle maestranze, si è creato, diciamo, un vuoto nel passaggio alla vuoto temporale, nel passaggio alla nuova diciamo società, che è poi l'AMIU di Bari, che in questo periodo di transitorio di circa un anno affiancherà diciamo, i nostri meccanismi di raccolta, e quindi questo fatto ha creato qualche scompenso, qualche giorno di fermo della raccolta, e ovviamente poi anche il periodo festivo ha contribuito con una maggiore produzione di rifiuti. E Focus Economia anche per questa sera termina qui. Grazie a tutti. Vi ricordo solo rapidamente che domani con il Sole 24 Ore c'è in edicola uno speciale Previdenza con tutte le regole e le novità sui trattamenti 2013, le nuove pensioni dai conguagli alle invalidità. Grazie a Barbara Bianchi, Rudy Cantadori. Noi torniamo domani. A tutti, buona serata.